Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di governance, di due libri dedicati alla governance, sia sotto il profilo della corporate governance, cioè delle regole che stanno e presidiano il governo delle aziende, delle imprese, sia sotto il profilo di una governance più ampia a livello di diritto e di stati e anche a livello sovranazionale. Su questo profilo ne parliamo con Maria Rosaria Ferrarese. Buonasera, dottoressa Ferrarese. Buonasera. Docente di sociologia del diritto nell'Università di Cagliari, che ha appena pubblicato un libro presso il Mulino, La governance tra politica e diritto. E ne parliamo con Andrea Gostein. Buonasera, dottor Gostein. Buonasera. Economista senior dell'OCSE a Parigi, che ha ancora col Mulino, ha pubblicato insieme ad Andrea Gorio il libro Corporate Governance nella collana Farsi un'idea. Allora, dottor Gostein, la corporate governance è un po' un elemento degli ultimi anni, che ha preso piede negli ultimi anni soprattutto come regole di gestione aziendale. Ecco, qual è la filosofia del suo libro dedicata appunto alla corporate governance? Beh, giustamente cerchiamo di spiegare che la corporate governance intanto è una serie di regole e di norme che si applicano alla gestione delle imprese da sempre. Quindi è vero che il termine, oltretutto inglese, intraducibile in italiano, è recente, ma di corporate governance si può parlare fin da quando si parla di imprese. Il secondo aspetto su cui ci focalizziamo è il fatto che non sia soltanto un fenomeno di tipo legale, giuridico, ma che attiene più in generale al governo appunto delle imprese anche dal punto di vista economico e al ruolo che le imprese giocano nella società più in generale. Ecco, quindi sotto un profilo complessivo di regole che sovraintendono alla gestione delle imprese, ma anche alla strategia delle imprese, cioè alla logica strategica che le imprese hanno nei rapporti non solo verso i propri dipendenti, ma anche più in generale verso quelli che vengono chiamati gli stakeholders, quindi il pubblico più vasto, gli azionisti innanzitutto, ma anche l'ambiente esterno, anche quella che viene chiamata la responsabilità sociale dell'impresa, dottor Gostein. Indubbiamente direi che la crisi dimostra proprio questo, che le imprese ben gestite sono le imprese che crescono di più, che contribuiscono di più al benessere collettivo e al contempo l'aspetto invece negativo è che imprese mal gestite poi rappresentano un onere per la società nel suo complesso e addirittura che un paese che ha tante imprese mal gestite non solo non cresce ma poi ha una stigma negativo più generale sul paese. Ecco, in sé la corporate governance non richiede delle regole scritte, anche se molte aziende hanno proprio delle definizioni che vanno al di là dello statuto che normalmente presidia appunto la gestione aziendale, è anche fatta da una serie di comportamenti consolidati nel tempo. Direi che ci sono tre livelli: uno è semplicemente il diritto commerciale, che in fondo rimane in ogni caso la base della corporate governance. Un secondo livello sono, come lei diceva, gli statement, le missioni che un'impresa si pone, le regole che si fissa. E il terzo è invece il dibattito che la società più in generale ha sul ruolo che le imprese hanno e da quel punto di vista il concetto di responsabilità sociale dell'impresa proprio si riferisce al fatto che un'impresa è responsabile verso la società nel suo complesso. Ecco, passando dal dottor Gostein alla professoressa Ferrarese, parlando appunto di governance tra politica e diritto, si può parlare di governance anche a livello superiore a quello delle imprese? Ah, indubbiamente, il termine governance diciamo che si è esteso anche ad un significato più generale per indicare dei nuovi modi di creare regole che sono invalsi nel mondo diciamo globale, ma che riguardano soggetti diversi che possono essere sia all'interno degli stati, alcuni tradizionali soggetti politici ma anche privati, sia al di sopra degli stati, altre entità. Forse proprio in questo ambito che il termine governance indica una vera novità, perché come diceva giustamente il dottor Goldstein, in fondo di corporate governance forse si poteva parlare anche prima che il termine venisse in uso. Invece di governance in senso istituzionale si parla diciamo proprio per indicare una novità che viene ad essere un rimedio per una difficoltà che diciamo i modi tradizionali di produrre le regole giuridiche incontrano in un mondo che si è globalizzato, ma anche in un mondo che è diventato abitato da entità sempre più complesse. Ecco, in questa prospettiva lei usa anche un altro termine abbastanza nuovo, che è quello di soft law, cioè di legge leggera. Che cosa intende con questo? Sì, il termine non è mio, il termine diciamo è diffuso nella comunità dei giuristi per indicare appunto una modalità nuova di creare delle regole che sono il tipo stesso di regole che sono delle regole non più accompagnate da sanzioni come si riteneva che fossero invece le tradizionali norme giuridiche, quelle interne agli stati prodotte soprattutto diciamo nell'epoca d'oro degli stati, ma invece un diritto appunto che cerca di procedere conquistando, come dire, il consenso spontaneo dei soggetti che si impegnano ad osservarle. Molti criticano questo tipo di essere del diritto, anzi reputano, come dire, che possa essere inefficace e che possa persino essere una specie di imbroglio passato, come dire, per farsi belli, per esempio le imprese tradizionalmente ricorrono a queste forme di accordi o di finti accordi con i propri clienti, per esempio questa è una forma tipica di soft law, per dire che si impegneranno a rispettare determinate regole etiche. Invece in realtà non, queste regole non possono essere efficaci perché non sono accompagnate da sanzioni. Da sanzioni. Ecco, in questa prospettiva vorrei chiedere al dottor Goldstein, anche dal suo osservatorio dell'OCSE, si è parlato molto negli ultimi anni, soprattutto dopo, durante la crisi del 2009, della necessità di nuove regole, di regole più precise che sovraintendano soprattutto i mercati finanziari. La prospettiva di questa soft law può essere una via d'uscita, dottor Goldstein? Ma sicuramente contribuisce, perché la prospettiva della soft law è importante proprio perché riguarda le regole ma riguarda anche i principi. E da questo punto di vista penso che l'OCSE abbia fatto un contributo, da un lato con degli strumenti di soft law in ambiti come la lotta alla corruzione, la corporate governance, le tese, i cartelli o la responsabilità sociale delle imprese, soprattutto delle imprese multinazionali. L'OCSE è per definizione un'istituzione che crea delle soft law. In occasione dell'ultima ministeriale dell'OCSE c'è stata una dichiarazione sull'importanza di accordarsi su determinati principi di ordine più generale, la cosiddetta dichiarazione sulla propriety, integrity and transparency. È importante proprio perché non sono degli strumenti cogenti, ma sono dei principi generali che poi possono portare a un accordo su invece determinate norme che in ogni caso ogni paese sovranamente, ogni Parlamento sovranamente deciderà di applicare nel proprio diritto, ma sulla base di principi condivisi. Ecco, professore Saffredo Rarese, quindi c'è la necessità un po' di ricostruire l'immagine tradizionale del diritto, in questo senso i giuristi forse qualche remora potrebbero averla. Vi è questa necessità, però questa necessità diciamo non deve spingersi fino al punto di distruggere ogni capacità normativa del diritto, ecco, ma per questo, per arrivare diciamo a delle sanzioni, occorre procedere con il metodo della condivisione, che è però un punto molto problematico nel mondo globale attuale. Ecco, quindi un metodo della condivisione che può comunque e deve anche per essere accettato dai singoli protagonisti della realtà attuale, anche perché fa comodo un po' a tutti, quindi far passare la logica del win-win, dottor Goldstein, dovrebbe essere quasi facile. Facile, come lei sa, quasi c'è molto poco di facile, in particolare nelle relazioni internazionali. Bisogna mettere di fronte i diversi attori, che siano i governi sovrani o che siano all'interno di ciascun paese i movimenti degli imprenditori, i movimenti sindacati, la società civile in generale, di fronte a un lato ai vantaggi di avere delle regole condivise e di applicarle nella maniera più adeguata possibile, e anche l'esistenza però dei costi. Bisogna muoversi in questo difficile crinale avendo appunto attenzione da un lato a non dimenticare che comunque il diritto rimane fondamentale, e allo stesso tempo cercando di coinvolgere tutti i soggetti, che di nuovo sia diversi soggetti sociali sia diversi soggetti geografici. Questo mi sembra che la vera sfida per l'avvenire, che in un certo senso è iniziata con il G20, sia quella proprio di coinvolgere i grandi paesi emergenti e soprattutto i cosiddetti BRICS, ma anche altri attori come la Turchia, l'Indonesia, coinvolgersi in uno sforzo collettivo per arrivare a regole migliori che siano poi applicabili ovunque, ma che non siano imposte da nessuno. Certo. Professoressa Ferrarese, per concludere, possiamo guardare comunque al dibattito in corso su questo argomento con un certo ottimismo? Sì, non è tempo proprio per l'ottimismo questo, perché come sappiamo in Europa stessa ci sono molti problemi in questo momento per arrivare a regole condivise, quindi se in una entità sovranazionale già ci sono delle difficoltà, si può immaginare che queste difficoltà non siano inferiori all'interno del grande mondo globale, però forse, come dire, la lezione della crisi dovrebbe indurre a raggiungere un minimo di condivisione che fino a questo momento non è stato possibile raggiungere, perché davvero è nell'interesse di tutti, ecco, tranne che di quei soggetti speculatori eccetera che da questo hanno da guadagnare, certo, e che anzi su questo puntano, come sappiamo. Quindi avere maggiore conoscenza dei problemi porta comunque a cercare di trovare delle soluzioni condivise, quindi conoscere i problemi è importante, possiamo farlo almeno nel nostro piccolo con questi due libri che vi ricordo: Maria Rosaria Ferrarese, La governance tra politica e diritto, edito dal Mulino, sono 220 pagine per 18 euro, ancora dal Mulino nella collana A farsi un'idea, di Andrea Goldstein e Alessandro Gorio, Corporate Governance, un cardine della crescita economica. Ringrazio quanti ci hanno seguito, Peter Bascapè in regia, Anita Panizza in redazione. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.